Eccoci ritrovati a Salvadanaio, che oggi vi spiega come funziona il nuovo pacchetto di incentivi fiscali legati alla ristrutturazione della casa o alla riqualificazione energetica della casa. Vi ricorderete bene, ne abbiamo parlato tante volte, i bonus del 36 e del 55%, e adesso in particolar modo quello del 36% diventa 50% di risparmio fiscale per questi lavori, appunto, di manutenzione straordinaria dell'abitazione, ma naturalmente questo sconto, che è molto importante, è temporaneo, per cui chi ne vuole beneficiare deve affrettarsi a fare i lavori in casa fino al giugno del prossimo anno. Da oggi il decreto sviluppo dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, per cui probabilmente nelle prossime ore, per chi vuole divertirsi anche guardando questo documento ufficiale, lo può sicuramente fare, appunto, prestissimo. Con noi stamane per parlare di tutte queste novità Cristiano Dell'Oste, Luca De Stefani, appunto collega del Sole 24 Ore rispettivamente ed esperto di questioni fiscali per il Sole. E allora, intanto, sull'ABC del nuovo pacchetto, Cristiano, abbiamo detto tutto, abbiamo detto quali sono i nuovi limiti di spesa, l'accavallamento tra il 50% e il 55% per i lavori di riqualificazione, appunto, energetica, come si fa a pagare, le modalità sono sempre le stesse, deve essere fatto tutto in maniera totalmente trasparente con bonifico bancario, mettendo nella causale gli estremi di legge che si riferiscono, appunto, alle misure legislative che hanno introdotto questi pacchetti. Luca De Stefani ci ha spiegato anche le novità, peraltro per i lavori che stanno partendo e che, se magari qualcuno ha già dato un acconto alle imprese, Cristiano, che cosa può fare? Magari per quel pacchetto già versato non può più beneficiare del 50% o vale, come dire, la spesa complessiva sostenuta? No, vale la data di effettuazione del bonifico, cioè il momento in cui viene sostenuta la spesa. Chiaramente, se io avessi pagato un bonifico, immaginiamo venerdì della scorsa settimana, quello ricade ancora nel regime del 36%, quindi bisognerà poi fare attenzione proprio alla data per determinare qual è la percentuale della detrazione. Allo stesso modo, se sappiamo che scade il 30 giugno del 2013, possiamo immaginare che ci sarà una bella corsa a fare i pagamenti entro il 30 giugno del 2013, appunto, per non pagare il 1 luglio e poi avere il bonus che dal 1 luglio dell'anno prossimo tornerà al 36%.